DNA, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea. Sono in collegamento con la nostra ospite, alla quale do subito il benvenuto, Esperanza Akuzuwimama Ripanti. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. Esperanza, spero di aver pronunciato bene il suo nome, che è un nome in parte di origini ruandesi e in parte bresciano, no? Esattamente. Allora, anche se, scusi se la disturbo, sì? È marchigiano, perché mio padre adottivo è marchigiano, quindi di Ripanti c'è una grande quantità, Civitanova Marche, dove arriva mio padre, e... di Ripanti nel bresciano non ce n'erano, erano solamente presenti in grande quantità nel marchigiano, Civitanova Marche, e quindi sono stata un po' singolare nel mio cognome, dove sono cresciuta appunto, nella bassa bresciana. E a Akuzuwimama ce n'erano anche meno nel bresciano? Sì, nel senso che Akuzuwimama invece era il mio nome, un nome di protezione che i miei genitori mi hanno dato, i miei genitori biologici, quando sono nata. Perché nel paese dove sono cresciuta io, quando un bambino nasce, gli si dà un nome di protezione ancora prima del nome attuale, effettivo, che va sui documenti. E difatti Akuzuwimama significa accompagnata nel viaggio. Molto bello, anche Speranza è un nome molto bello. Sì, insomma, sì. Diversi nomi che indicano un insieme di identità sulle quali lei ha riflettuto molto, sulle quali lei continua a riflettere. Lei è una scrittrice, anche una collega radiofonica, perché lavora per una radio piemontese, poi magari ci racconterà, si occupa di libri e attualità. Il libro che ha pubblicato è E poi basta, manifesto di una donna nera italiana per l'editore People. È nata in Ruanda nei primi anni 90, durante gli anni del genocidio, e fino a 3 anni è rimasta in un orfanotrofio gestito da un'associazione italiana. Dopo l'adozione è cresciuta in provincia di Brescia, ha studiato all'università di Trento e ora ha pubblicato questo libro. E poi basta. Da dove arriva questo titolo? Ma guardi, il titolo arriva da un'esigenza, nel senso che io dopo aver fatto l'università mi sono spostata a Torino per frequentare la scuola Holden, che è una scuola di scrittura creativa, penso che sia anche l'unica scuola di scrittura creativa in Italia, un laboratorio artistico molto bello che offre tantissime opportunità. Però quando sono uscita lì, dopo aver frequentato appunto 2 anni di scrittura, le uniche offerte di lavoro, di progetto che ricevevo erano tutte legate a una parte importantissima della mia vita, ma che mi limitava tantissimo, che era quella legata appunto al genocidio del Ruanda. Io appunto, come dicevate, sono nata nel 1991 e già nel 1993 sono iniziati i primi scontri, no, nel mio paese. E per quanto possa essere una parte molto importante della mia identità, della mia cultura e delle mie origini, io mi sono sempre sentita molto limitata quando le persone mi interpellavano, mi chiedevano di scrivere e soprattutto si interessavano a me solo per questo evento, perché una delle cose che ho imparato e una delle cose che comunque hanno contrassegnato il mio percorso rispecchia le mie multiple identità. Ho deciso di scrivere determinate cose, ho deciso di parlare di razzismo, ho deciso di raccontare cosa significa essere neri italiani in un paese come l'Italia, ho scritto anche quanto sia difficile e quali siano state appunto le difficoltà che ho incontrato. Però dopo questo testo io voglio iniziare a scrivere le cose che voglio scrivere. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Lei sui social è molto attiva in questo senso, parla di attualità ma anche soprattutto di libri su Instagram, sui social, no? Sì, tantissimo, perché ho scoperto uno che mi piace tanto, nel senso che io sono sempre stata, come si dice, una lettrice forte, però proprio crescendo mi sono resa conto di quanto i libri possano essere un veicolo per capire anche un po' l'attualità, quindi io mi definisco attivista culturale proprio per questo, perché il mio modo per poter raccontare, spiegare alle persone che cosa sto vivendo, come vedo l'immigrazione, la politica estera, interna, lo faccio tramite libri, tramite della letteratura. In che maniera l'identità originaria, biologica, è una componente dell'identità italiana? Ma una delle cose che cerco sempre di raccontare quando vado a parlare con genitori adottivi o comunque con persone che sono curiose sugli aspetti di questa realtà, di questo mondo che è l'adozione, soprattutto l'adozione internazionale, di cui purtroppo se ne parla davvero poco, e se ne parla spesso si tengono fuori i veri protagonisti, che sono i ragazzi adottati, le persone che hanno vissuto sulla propria pelle l'adozione. Ecco, una cosa che io cerco sempre di sottolineare è che appunto l'adozione è una cosa che dura per sempre, nel senso che è un processo che non ha fine. Una persona adottata sarà adottata per sempre, e per sempre si dovrà far carico e dovrà cercare di affrontare determinate domande. E perché non è così scontato che sia per sempre? No, assolutamente, perché uno degli aspetti principali è una visione, no, dell'adozione che inizia quando un genitore appunto capisce, no, di voler intraprendere questo passaggio, questo percorso, e poi appunto il genitore, non so se si tratta di adozione internazionale, si sposta, va nel luogo di nascita del futuro figlio, e poi arriva in Italia e ritorna in Italia, no, con questo nuovo figlio, e poi appunto l'idea è che ok, adesso è tutto sistemato, nel senso adesso si è creata una nuova famiglia e possiamo andare avanti a essere famiglia e a fare esattamente come prima su certi aspetti. Invece è proprio lì che inizia l'adozione, perché comunque, soprattutto appunto dell'adozione internazionale, significa creare una nuova famiglia con un bambino che è nato e magari in parte è cresciuto, e possono essere 3 mesi come possono essere 4 anni, è cresciuto in un'altra realtà e è appartenuto e apparterrà sempre comunque in parte a un'altra realtà. E questo è un percorso con cui bisogna venire fatti sempre, ma soprattutto in determinate fasi della vita. Penso all'adolescenza, penso all'inizio dell'età adulta, penso alla maternità. Sono comunque tutte fasi che per persone adottate comunque comportano delle domande molto profonde, ma soprattutto molto complesse. Torniamo al Ruanda, a quell'anno in cui lei venne portata in orfanotrofio da suo padre. L'orfanotrofio era gestito da italiani e il Ruanda stava vivendo un momento particolare, no? Ma ce lo racconti lei? Sì, io appunto sono nata nel 91, mia madre biologica è venuta a mancare quando io avevo pochi mesi, e quindi, come capita spesso in particolari regioni dell'Africa, ma in generale anche in tantissimi paesi di quello che viene definito terzo mondo, quando i genitori non hanno la possibilità economica di poter comunque garantire una vita dignitosa ai figli, cercano di appoggiarsi a questi istituti, che sono comunque tanti e soprattutto hanno più disponibilità. Lo fanno con comunque la promessa e la certezza che quando le cose comunque miglioreranno andranno in un certo senso a riprendersene. Nel mio caso mio padre mi ha portato in questo orfanotrofio gestito da questa associazione italiana, solo che non ho avuto la possibilità di venire a riprendermi, perché da lì a un anno e mezzo sono incominciati i primi tumulti e le prime guerriglie, che poi hanno portato a quello che è stato il genocidio del 1994. Ci fermiamo brevemente, ma torniamo a parlare di questi temi tra pochissimo. I figli di Enea. Siamo di nuovo in studio in collegamento con Esperanza Akutsuwimama Ripanti, scrittrice, giornalista, attivista, ha pubblicato E poi basta, manifesto di una donna nera italiana, e stavamo parlando con lei di adozioni internazionali. Io, quando sono appunto iniziate le prime guerriglie, mi trovavo all'interno di questo orfanotrofio, e le persone che gestivano questo orfanotrofio, a seguito di un attacco da parte di una milizia regionale, hanno deciso deciso di cercare di trovare un modo per salvarci la vita, e l'hanno fatto portandoci all'aeroporto di Kigali, che è la capitale ruandese, e mettendoci praticamente sopra un aereo. Era uno degli ultimi aerei che partiva dal Ruanda verso l'Europa, e al suo interno c'erano gli ultimi giornalisti, turisti, persone occidentali che erano in Ruanda per svariati motivi. E noi praticamente, dato che appunto tutti i posti erano occupati, eravamo 40 bambini che siamo stati ospitati un po' in stiva, soprattutto quelli più piccoli, e quelli più grandicelli sono stati messi letteralmente in braccio a questi passeggeri, a queste persone che non hanno avuto scelta, ma in qualche modo hanno contribuito al nostro salvataggio, se così vuoi. Eravate dei bambini proprio piccoli, quindi siete stati tenuti in braccio perché non c'erano altri posti. Esattamente. Lei non ricorda ovviamente tutto questo, gliel'hanno raccontato? No, me l'hanno raccontato, e poi ci sono stati dei video che hanno documentato quello che stava accadendo, perché per quanto appunto ci fosse tutta questa situazione grave, ci sono state anche delle persone che hanno voluto tenere dei ricordi per noi, per farci vedere poi a distanza qual è stata la nostra storia, per potercela comunque in un certo senso lasciare e poi tramandare. È vero che gli operatori dell'orfanotrofio hanno viaggiato in stiva perché non c'erano più posti? Esattamente. E hanno... Dovete pensare, mi riferisco ovviamente agli ascoltatori, che l'orfanotrofio in quel momento si è trovato con la guerra in casa, si è trovato con Hutu e Tutsi che si uccidevano fra vicini di casa, quindi il Ruanda era veramente in una situazione di grande destabilizzazione. Tra l'altro adesso è un paese in grande crescita in Africa, sì. Dove è cambiato completamente tutto, e questo è un bellissimo segnale per i paesi africani, perché chiaramente ci può essere una ripresa e anche una riconciliazione fra le diverse parti. C'è anche da dire che in Ruanda, come anche in altri paesi africani, ad esempio l'Etiopia, i genitori quando sono in difficoltà economiche o quando dei due genitori ne rimane uno, a volte diciamo affidano i bambini all'orfanotrofio senza capire l'istituto dell'adozione che cosa sia, e nell'illusione che potranno andarli a riprendere in qualsiasi momento. Questo è accaduto anche in Etiopia per anni. In Ruanda mi pare di capire che succedesse una cosa simile, che non ci fosse da parte della popolazione locale la consapevolezza che l'orfanotrofio non era una pausa, ma poteva essere per sempre. Esattamente, questa è una cosa che capita spessissimo. Ne parlavo qualche giorno fa con questo gruppo di persone adottate dallo Sri Lanka, dove in Sri Lanka stanno facendo un'azione per cercare di contrastare, ma soprattutto per cercare di recuperare queste madri che hanno consegnato i figli con la consapevolezza che questi figli sarebbero stati cresciuti, sarebbero stati educati e poi sono stati adottati senza che loro lo sapessero. E questa è una storia che si ripete, motivo per il quale adesso i paesi, soprattutto dall'Africa, hanno un'attenzione molto molto più serrata nei confronti delle adozioni internazionali. Infatti il Congo ha chiuso, l'Etiopia ha chiuso, ci sono dei motivi loro, burocratici, eccetera, ma ci sono stati anche degli scandali in questo senso. Esattamente. E nella mia storia, nello specifico, questo orfanotrofio non era nato come centro appunto di adozione. Il problema è stata l'emergenza di un genocidio che, come ha detto lei, ti entra in casa e al quale bisogna rispondere cercando di preservare, no, la vita di questi bambini. Il disguido, se così possiamo chiamarlo, è nato nel momento in cui questi bambini, cioè noi, siamo arrivati in Italia e siamo stati resi adottabili. Quando nel paese di origine comunque dei familiari, dei genitori, uno o entrambi c'erano, il problema era che in quel periodo, che va dal 1994 al 1999-2000, il paese del Ruanda e i suoi abitanti stavano cercando di riprendersi da un genocidio, che è una cosa che non è che può durare e essere conclusa nel giro di un anno, di pochi mesi. E questo appunto ha aperto un caso internazionale, dove appunto lo Stato del Ruanda poi, a seguito delle rimostranze da parte di questi genitori, da parte di queste famiglie, ha richiesto non solo in Italia ma anche in Belgio, in Francia, in Canada, che questi bambini tornassero indietro, perché erano e sono figli del Ruanda. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? L'adozione internazionale è una cosa molto delicata, che presuppone che ci siano istituzioni pari nei due paesi, e non sempre così. No, purtroppo no, e in questo squilibrio c'è sempre una parte appunto che purtroppo perde o non ha la possibilità di avere una voce abbastanza forte. Secondo lei l'adozione internazionale è una forma di colonialismo? Sto ancora cercando di trovare una versione che possa comunque non usare una parola forte come appunto nuovo colonialismo. Il problema è che io da qualche anno ho incominciato a confrontarmi con adottati adulti sia italiani che stranieri, e questa è un po' l'idea che comunque si respira in questo mondo dalla parte dei protagonisti, nel senso che le storie che abbiamo vissuto hanno sempre un filo in comune dove c'è qualcosa che è andato male, o soprattutto c'è qualcosa di non torbido, però che ha delle ombre, dove alcuni passaggi non sono stati chiari, dove ci sono stati a volte anche dei giri veri e propri di soldi da parte degli enti, oppure dove i paesi di origine hanno appunto dato l'adottabilità di bambini che in effetti adottabili non erano, dove appunto un orfanotrofio ci può tra virgolette guadagnare tramite lo Stato ad avere bambini sempre più adottabili. E questo fa pensare e fa capire che c'è bisogno di un approfondimento, ma soprattutto, come dico io non sono contraria all'adozione internazionale, anzi davvero per me è una cosa straordinaria, però penso che, come ha fatto appunto l'Etiopia, come ha fatto il Congo, un paese debba prima di tutto cercare di fare di tutto perché quel bambino che ha bisogno di una famiglia possa restare nel suo paese, perché non ha solo bisogno di una famiglia ma anche bisogno di un'identità in cui rispecchiarsi, perché è una cosa che poi quando si cresce, prima facevo i riferimenti nelle tappe dell'adozione, quando si cresce crea dei vuoti, crea delle crepe che non possono essere curate solo con l'amore. La nostra identità su un sentimento che è quello della gratitudine, del fatto di dover crescere sempre con questa sensazione di dover essere grati, e questo ti condiziona, ti porta ad avere delle disfunzioni anche nei rapporti, nelle relazioni, nella tua autostima. Lei e Speranza ha mai cercato il suo padre biologico? No, perché come ho spiegato nelle varie interviste, a parte appunto che questa è una cosa molto personale, ma soprattutto ho deciso che voglio prima di tutto avere un'integrità e un percorso solido qua nella mia vita di adesso e nella mia vita che sarà. Poi quando sarò pronta, quando vorrò e quando soprattutto non sentirò pressioni esterne, perché poi questa è una domanda che mi fanno sempre, e lo farò e sempre se ne sentirò davvero il bisogno. Senta, visto che il suo libro tratta di questo, quanto è difficile essere una donna nera italiana, le tre cose insieme? Molto, è molto molto difficile, costantemente, ed è una lotta che inizia nel momento in cui io apro la porta di casa mia e devo uscire fuori nel mondo, e finisce quando ritorno a casa mia e posso aprire un libro. Ho letto che lei ha scoperto di essere nera a 8 anni, prima pensava di essere bianca, in che senso? Prima sapevo di non essere bianca, e lo sapevo talmente tanto che la mia testa e il mio cuore mi hanno convinta che potevo essere esattamente come gli altri, anzi forse addirittura più bianca degli altri, ed è stato un senso di protezione. stata in una realtà in cui sono sempre stata minoranza e soprattutto sono sempre stata a rischio, no, di essere bersaglio, di essere discriminata, di essere offesa per una cosa che non potevo cambiare e che adesso non cambierei mai, non vorrei mai cambiare. Però quando ero piccola era molto più difficile capire questa cosa, soprattutto perché non avevo nessuno con cui parlarne, non avevo nessuno con cui confrontarmi, a cui chiedere davvero se avere la pelle nera poteva essere una cosa così negativa come tutti gli altri mi sottolineavano costantemente. Grazie Speranza per essere stata con noi questa sera e poi basta, manifesto di una donna nera italiana. Buona serata. Grazie mille. Grazie anche a Carmelo Lauricella per l'assistenza tecnica, a tutti voi per l'ascolto, seguiteci anche in podcast, ci trovate ogni sabato sera sulle frequenze di Radio 24 alle 21. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao.